Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'intervento, come già si sa, perché ho visto cosa gli è finito. L'intervento è finito, è andato tutto bene, senza complicazioni, nei tempi previsti, e adesso è in terapia intensiva. Naturalmente adesso bisogna aspettare l'esito, che si svegli, eccetera, eccetera. Però tutto bene, per fortuna, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'avete sentito, il cardiochirurgo di Silvio Berlusconi, Alfieri, che ha detto che l'intervento, che doveva esserci appunto oggi, è preso stamattina intorno alle 8, di 4 ore è andato bene, la sostituzione della valvola aortica, insomma tutto come previsto, e ora naturalmente bisogna aspettare un pochino il decorso. Però per fortuna il leader di Forza Italia, insomma, ha superato questa prova, almeno per il momento. Mentre non vanno bene le cose in Francia, veramente è una Francia messa a ferro e fuoco, come si dice molto in sintesi, per dare proprio il senso di quello che sta succedendo, perché la Francia è stretta in questo momento tra terrorismo, dagli attacchi di Parigi del 13 novembre, però avete sentito anche che ieri sera è stata uccisa una coppia di poliziotti nella loro abitazione da un terrorista, e quindi adesso ci sono le indagini, poi scontri, molti scontri di piazza, anche con feriti, con vari fermi, arresti eccetera, per le manifestazioni contro la riforma del lavoro, che sta diventando sempre più dura questa protesta. E poi gli ultra, oppure quelli che vengono chiamati ultra del calcio, ma che sarebbe meglio definire come gli imbecilli del calcio, violenti, che adesso sempre per in Francia gli hooligan sono ancora in azione a Lille, scontri tra russi, inglesi, gallesi. Adesso vediamo se veramente verrà espulsa la Russia oppure no, perché era stata una promessa dalle autorità francesi: se ancora scateneranno risse eccetera, la Russia verrà cacciata dagli europei 2016. Insomma, diciamo, la Francia sicuramente non in una situazione facile in questo momento, si aggiungono poi gli scioperi, quindi immaginate. Ne parleremo in modo approfondito, e poi parleremo anche di una cosa più leggera, ma una buona notizia: il caffè non fa venire il cancro. L'OMS ha dato la sua sentenza, sapete che aveva annunciato che si stava interessando del caffè dopo che aveva lanciato l'allarme mesi fa sulle carni lavorate, in particolare dicendo che sono cancerogene, e di stare comunque attenti alle carni rosse, poi ognuno fa come crede. Quindi ne parleremo anche di questo con un esperto. Intanto mi sto avvicinando, come sempre all'inizio della trasmissione, alla sintesi della giornata, quindi se volete avere un quadro esauriente dei fatti principali. E poi invece quello che vi sottopongo è la proposta del governo per la flessibilità in uscita, per la flessibilità sulle pensioni. L'esecutivo ha ribadito l'intenzione di non modificare la legge Fornero, quindi quella non si modifica, però per chi vuole andare in pensione anticipata non ci sarà una penalizzazione, così ha detto il sottosegretario Nannicini, ma si potrà andare in pensione un po' prima, con un prestito da restituire a banche e fondi pensioni con gli interessi nell'arco di 20 anni, cioè dovranno restituirlo con rate che si prolungheranno per 20 anni. Chi vorrà andare, vi sembra, adesso ci sarà un altro incontro con i sindacati per dare ulteriori dettagli, a voi pare una proposta che vi convince, che magari alla quale potreste aderire? In particolare qui si parla di lavoratori over 63, progressivamente quelli nati per il momento tra il 1951 e il 1955, che potranno andare in pensione con 3 anni d'anticipo grazie a questo prestito da restituire a rate in 20 anni. Vi convince o non vi convince? Quali sono i motivi? Scrivete come sempre pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi sempre giorno e notte, oppure i messaggi WhatsApp al 349-238-6666, 349-238-6666. Intanto vediamo che giornata è stata. Francia, dopo l'uccisione di una coppia di poliziotti, il presidente Hollande assicura vigilanza al massimo livello e più mezzi contro il terrorismo. Intanto a Parigi scontri al corteo contro la riforma del lavoro, 42 fermi e 40 feriti. La strage di Orlando, il presidente americano Obama torna a parlare e dice alla comunità LGBT: non siete soli, e chiede di rendere difficile l'accesso alle armi. Se non si può salire su un aereo, dice, non si può acquistare un'arma. Nel frattempo poi c'è stata anche una sparatoria in Texas, in un supermercato è stato arrestato l'uomo che teneva in ostaggio una persona, e tutto è andato per il meglio. Borse, ancora effetto Brexit, Parigi e maglia nera con meno 2,2%, Milano perde il 2,1%, e la Corte europea dice è legittimo che la Gran Bretagna limiti l'accesso alle prestazioni sociali se i cittadini non hanno il diritto di soggiorno nel paese. Le condizioni di salute di Berlusconi, l'avete sentito, sta bene, l'operazione è riuscita, ha assicurato il dottor Alfieri che l'ha operato. Pensioni, la proposta del governo, prestito da restituire in 20 anni per uscire in anticipo senza penalità. Dopo di noi la Camera dà il via definitivo alla legge che per l'appunto si chiama Dopo di noi. Alimentazione, l'OMS promuove il caffè, non è cancerogeno, e il ristorante migliore del mondo risulta l'osteria francescana dello chef Bottura. Europei 2016, la nazionale di Conte torna a far sognare, intanto Austria-Ungheria finisce 2-0 per l'Ungheria, in campo si sta giocando Portogallo-Islanda. Partiamo quindi dalla Francia, che vi dicevo sta vivendo giorni di alta tensione. Ci sono stati oggi scontri e feriti durante l'ennesima manifestazione nazionale organizzata dai sindacati francesi contro la riforma del lavoro voluta dal presidente Hollande. Oltre 40 le persone fermate e intanto il paese è ancora sotto shock dopo l'assalto terroristico nel quale è rimasta vittima una coppia di poliziotti. Il presidente Hollande assicura vigilanza al massimo livello e più mezzi contro il terrorismo e fra l'altro vi dicevo adesso per Euro 2016 hooligans ancora in azione, scontri tra russi, inglesi e gallesi. Tra poco torniamo sulla Francia per fare un po' il punto sui vari difficili fronti che sta vivendo. E siamo alla strage di Orlando negli Stati Uniti, avvenuta nella notte tra sabato e domenica, che ha provocato come sapete 49 morti. Sono 27 i feriti ancora ricoverati in ospedale, 6 di loro versano veramente in gravi condizioni. Il presidente americano Obama torna a parlare, dice la comunità LGBT non siete soli, solidarietà è arrivata anche dall'Italia, in particolare dalla Presidente della Camera Boldrini e dalla Ministra Boschi. Obama chiede anche di rendere difficile l'accesso alle armi se non si può salire su un aereo, dice allora non si può acquistare un'arma. Quella della violenza delle armi da fuoco in America è un'epidemia, un'emergenza nazionale che provoca 27 morti al giorno negli Stati Uniti, lo afferma New York Times rilanciando la proposta del no buy list in cui inserire i nomi di tutti coloro a cui deve essere assolutamente vietato vendere pistole o fucili. In effetti sarebbe una misura quanto mai di buon senso. Il quotidiano si scaglia quindi contro un'inazione senza scuse della politica, invita a votare per la Casa Bianca chi è preparato per affrontare questa crisi e respingere quelli che non la tollerano. Intanto c'è stata una sparatoria in Texas, vi dicevo, però finita per fortuna per il meglio. Torna sulla tragedia di Orlando il presidente Obama, torna a sollecitare limitazioni all'accesso alle armi, anche se definisce la carneficina un'azione isolata. L'autore Omar Mateen aveva tendenze omosessuali, lo scrive il New York Post citando un'intervista che l'ex moglie ha rilasciato ad una TV brasiliana. Mentalmente instabile, malato, riferisce la donna, che risulterebbe indagata secondo alcune fonti perché forse sapeva qualcosa sulle sue intenzioni. Alcuni hanno detto di aver visto il killer più di una volta nel locale dove ha ucciso 49 persone, il Pulse, sempre da solo, spesso ubriaco fino a diventare molesto. Non sembra si trattasse di sopralluoghi. Mateen frequentava anche altri locali gay, un lupo solitario che coltivava l'odio verso gli omosessuali. Le ultime testimonianze stanno portando gli inquirenti a valutare anche la pista della possibile omosessualità dell'assassino, mai accettata e repressa, spesso proprio con l'aiuto di massicce dosi di alcol. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Pensiamo che cosa può fare addirittura una sessualità repressa. Siamo alle borse, per cambiare completamente argomento. C'è ancora l'effetto Brexit, ennesima gelata sui listini europei per il rischio di una Brexit e di un'eventuale uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, con gli investitori che in attesa di questo referendum del 23 giugno preferiscono spostarsi su asset meno rischiosi. Francoforte ha ceduto l'1,4%, Londra, Parigi e Madrid attorno al 2%, a Milano il FTSE MIB ha chiuso in calo del 2,11%. Intanto anche il Sun, la testata più popolare del Regno Unito, si è schierata a favore dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Stando ai sondaggi, a 9 giorni dal voto, gli euroscettici sarebbero in Gran Bretagna in vantaggio. E fa ancora discutere, invece, tornando sulle questioni italiane, l'intervista del ministro Carlo Calenda rilasciata a Radio 24 sugli errori della Consob. Non volevo creare polemica, ho solo dato un giudizio. Il ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, all'indomani dell'intervista a Mix 24, nella quale parla di errori della Consob nella vicenda delle 4 banche salvate con decreto in novembre, smorza i toni. Ma la bomba politica è comunque scoppiata. Se un altro ministro, Graziano Del Rio, dice di non sapere nulla di polemiche all'interno dell'esecutivo, un altro ministro ancora, Angelino Alfano, si muove in difesa del presidente dell'autorità di controllo sui mercati. Il governo non deve e non può attaccare In ballo non c'è la persona del presidente Giuseppe Vegas, aggiunge, ma una corretta relazione tra le istituzioni, mentre anche Forza Italia torna a difendere Vegas, che fu viceministro all'economia del governo Berlusconi. Le acque sembrano comunque un po' più calme. Di certo c'è che il mandato di Vegas scadrà l'anno prossimo e i giochi per la sua sostituzione, anticipata o no, hanno tutta l'aria di essere iniziati. Simone Spezia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo adesso dell'operazione al cuore di Silvio Berlusconi. I medici, come avete sentito, rassicurano che l'operazione è andata bene. L'intervento è andato bene, senza complicazioni, nei tempi previsti, ora in terapia intensiva. Queste le parole del cardiochirurgo Ottavio Alfieri, che ha operato Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. L'operazione a cuore aperto è terminata poco prima delle 12.30 ed è durata 4 ore. L'ex premier si trova adesso in terapia intensiva, dove passerà 2 giorni, poi sarà trasferito per una settimana in reparto per la degenza. Un mese durerà invece la riabilitazione. Così il fratello dell'ex premier, Paolo Berlusconi, all'uscita dell'ospedale. L'operazione, come sapete, è andata bene, io l'ho potuto vedere, respirava regolarmente, adesso sta mio fratello a completare l'opera, però siccome il suo cuore, oltre che molto forte, è molto buono, sono sicuro che supererà anche questa prova. Tra le note di colore le lacrime di Francesca Pascale, la compagna dell'ex premier, che è apparsa commossa dalla finestra della camera d'ospedale. Ma intanto tra i figli dell'ex cavaliere c'è irritazione per le dichiarazioni dei parlamentari di Forza Italia già in corsa per la leadership di partito. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso tema delle pensioni, incontro oggi tra governo e sindacati, le parti torneranno poi a vedersi il 23 e il 28 giugno e oggi, come vi dicevo all'inizio, si è parlato del prestito pensionistico per chi lascia il lavoro prima dell'età della vecchiaia. La proposta messa sul tavolo dall'esecutivo non prevederebbe penalizzazioni ma una rata di ammortamento di 20 anni di questo prestito, quindi da restituire in 20 anni a rate con la copertura assicurativa e una detrazione fiscale sulla parte del capitale anticipato per alcuni soggetti più deboli e meritevoli di tutela. Vi convince questa proposta? Lascereste un po' prima il lavoro con questo prestito che poi dovreste restituire anche nell'arco di 20 anni a rate? 349-238-6666 oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Oggi tra l'altro c'è stato il via libera definitivo dell'Aula della Camera alla legge sul dopo di noi, che contiene le nuove norme in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. I voti a favore sono stati 312, 64 i contrari, 26 astenuti. Movimento 5 Stelle ha votato contro, Sinistra Italiana si è astenuta. Arriviamo così alla cronaca. Un uomo di 47 anni, Paolo Ciacalini, è morto con una coltellata al cuore in seguito a un litigio nel traffico. È successo in Abruzzo, in provincia di Teramo. Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe dovuta a una mancata precedenza. Pensate, l'aggressore sarebbe sceso dall'auto con un coltello colpendo in pieno petto la vittima. I carabinieri lo hanno arrestato. E c'è una svolta nelle indagini sulla morte di Sara Bosco, la 16enne stroncata una settimana fa a Roma da un'overdose, probabilmente di eroina. Accusato di omicidio volontario, il pusher che le ha fornito la dose letale. Non più istigazione al suicidio, ma omicidio volontario. Sara Bosco, la ragazza trovata senza vita dalla madre mercoledì scorso in un padiglione dismesso dell'ospedale Forlanini di Roma, sarebbe stata uccisa. Solo gli esami tossicologici faranno luce sulla sostanza che ha provocato la morte della sedicenne, anche se con ogni probabilità si tratta di eroina. Nel frattempo, il PM Antonino Di Maio ha deciso di inserire nel registro degli indagati il pusher che avrebbe fornito a Sara la dose fatale. La ragazza, ha mostrato l'autopsia, non soffriva di nessuna patologia e aveva avviato da tempo un percorso di disintossicazione. Ecco perché l'ipotesi del suicidio, sollevata dalla madre, anche lei con un passato di droga alle spalle, sembra via via sempre meno credibile. Stamattina, intanto, la polizia ha sgomberato i reparti abbandonati dell'ospedale, partendo proprio dalla corsia in cui è stata ritrovata la sedicenne. 24 gli arresti per occupazione abusiva, 1 per detenzione di stupefacenti. Emiliano Mariotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Occupiamoci adesso di alimentazione. Gli italiani possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Secondo l'OMS, il caffè non causa il cancro alla vescica. Poi ne parleremo qui a Fette Notte con un esperto. Ladies and gentlemen, becoming the first Italian restaurant to make it to number one on the 50 best list. The best restaurant in the world is Osteria Francescana. Il miglior ristorante al mondo è l'Osteria Francescana dello chef Bottura. È la prima volta di un italiano. Scalza El Celar de Can Roca di Girona in Spagna, secondo The World's 50 Best Restaurant. Ieri c'è stato questo annuncio, l'avete sentito, al Cipriani Wall Street di New York, una grande festa nella Grande Mela, e anche a Modena, dove sede il ristorante. Un cliente americano ha detto c'è un cibo fenomenale. Ecco. Per quanto riguarda invece la TV, questa notizia, Maurizio Crozza passa dalla 7, quindi lascia la 7, va a Discovery. La notizia che circolava da ora è stata confermata. Crozza diventerà un volto di Discovery dal 1 gennaio 2017. E poi per il calcio invece poi parleremo di tutto questo entusiasmo intorno a Conte, alla sua nazionale che si dice torna a far sognare. Intanto è finita la partita poco fa, insomma circa un'ora fa, Austria-Ungheria 2-0 per l'Ungheria, mentre adesso è in corso Portogallo-Islanda. Ci aggiorniamo su questo dopo. Invece volevo già aggiornarvi su alcuni vostri messaggi che stanno arrivando circa questa proposta. Si propone tanto, ci sono insomma varie ipotesi sulla flessibilità per quanto riguarda le pensioni. Adesso vi dicevo di questo prestito a cui sta pensando l'esecutivo, che poi può essere restituito a rate in 20 anni, per uscire un po' prima dal lavoro. Cristiano dice: è una matassa, un groviglio disperato che svela tutta l'inconsistenza di un esecutivo penoso. Questo a pagina Facebook di Effetto Notte. Poi ci sono anche messaggi al 349-238-6666. Sulle pensioni è scandaloso: dopo aver versato 42-43 anni devo anche pagare un prestito, e loro infatti vivono nell'oro, dice questo ascoltatore. Su WhatsApp vediamo se si trova anche il nome dopo. Gabri da Milano dice: dovrebbero vergognarsi. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E tanti altri argomenti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Roberta Giordano sempre con voi, tra poco ve le ricordo le notizie principali. Poi cominceremo come sempre da questo punto in poi ad approfondire alcuni argomenti con gli ospiti. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi attraverso i due canali privilegiati qui per intervenire e interagire con me, con Effetto Notte, e la pagina Facebook del programma, quindi la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Ancora qualcuno mi chiede come faccio a trovarla, una semplicità pazzesca. E poi il numero 349-238-6666 invece per WhatsApp, SMS. Quello che vi sottopongo come argomento questa sera per le vostre opinioni è questa proposta, una nuova proposta del governo per quanto riguarda le pensioni. Sta studiando la riforma e si parla di una flessibilità in uscita dei lavoratori con strumenti finanziari, cioè ci sarebbe l'ipotesi di un prestito con copertura assicurativa, detrazione fiscale per quelli più in difficoltà, insomma comunque per l'uscita anticipata un prestito da restituire in 20 anni con rate di 20 anni. C'è, tra l'altro, avevo visto una ascoltatrice piuttosto spiritosa o realistica, Ilaria, che dice: quanta fiducia nella nostra longevità non mi quadra tanto. In effetti uno dice: ma se esco, insomma, speriamo di vivere tutti molto a lungo, però se si esce diciamo intorno a una certa età dalla pensione, restituirla in 20 anni diventa, ma insomma, ottimistico, e magari uno insomma, magari se la può svignare anche prima, spera di, naturalmente di no, non sono stato da questo punto di vista parlando cinicamente. Comunque le vostre opinioni, per esempio questo ascoltatore dice: il prestito è una follia. Un altro: soluzione un po' utopistica ma non troppo per le pensioni, mettere le persone nelle condizioni di fare quello che gli piace per tutta la vita. Mi rendo conto che il primo passo sarebbe una buona educazione. Poi un altro ascoltatore, quell'altro era Luca da Milano: questo non si firma, prenderò 720 euro di pensione a 67 anni, lavoro usurante, per ingrassare i parassiti dovrei fare anche un prestito, come lo pago? Dice questo ascoltatore o ascoltatrice. Continuate pure con le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Io vi ricordo quali sono le notizie più importanti per passare subito allora al primo argomento. Parigi ripiomba nell'incubo, uno jihadista uccide due poliziotti. Il killer su Facebook aveva scritto: sono dell'ISIS, Euro 2016 sarà un cimitero. E poi scontri al corteo sul lavoro, contro la riforma del lavoro a Parigi, decine di feriti, una quarantina di persone fermate, alcuni manifestanti che lanciano pietre e la polizia che risponde con i lacrimogeni. E poi le condizioni di Berlusconi: oltre 4 ore di intervento, ma è andato tutto bene, dice il suo cardiochirurgo. E c'è su vari siti insomma insomma, l'immagine del pianto della Pascale, della sua compagna, dalla finestra dell'ospedale. Poi ancora effetto Brexit sulle borse, lo spread sale a 150, giù i mercati, Milano perde il 2,1%. Il killer di Orlando, della strage di Orlando in negli Stati Uniti, frequentava, si viene a sapere, il Pulse, cioè quella discoteca gay, e faceva parte anche di una chat gay. Intanto negli Stati Uniti cresce il vantaggio della candidata democratica Hillary su Trump, candidato repubblicano. Scontro nel governo italiano sulla Consob, sull'organismo di controllo della borsa. Alfano dice non bisogna mai attaccarle. Poi avete sentito di questa proposta per quanto riguarda le pensioni, l'anticipo senza penalità, dice il sottosegretario Nannicini, ma un prestito a 20 anni, e vi chiedo su questo la vostra opinione. Euro 2016, tutti scoprono l'Italia definita eterna e che corre tanto. Questo è un po' il clima che si respira in questi giorni in Francia, in particolare a Parigi. La Francia che da qualche tempo, in particolare negli ultimi giorni, è davvero un paese ad alta tensione. Vi elencavo prima, no? Questioni di terrorismo, scioperi e manifestazioni contro la riforma del lavoro, che sono sempre più duri. Ultra del calcio, intanto il terrorismo islamista che torna a colpire la Francia 7 mesi dopo il tragico 13 novembre. A Magneville, a una 50 di chilometri da Parigi, un uomo ha ucciso una coppia di poliziotti, una donna e un uomo, sotto gli occhi del loro bimbo di 3 anni, che per fortuna è rimasto vivo. L'attacco è stato rivendicato poi dall'ISIS. Per quanto riguarda le manifestazioni contro la riforma del lavoro, che in realtà poi durano da mesi, ma insomma si stanno facendo, lo scontro si sta facendo sempre più pesante. Da una parte della protesta si è trasformata in una vera e propria, come avete sentito, guerriglia urbana, con oltre 40 persone fermate. Poi ci sono gli scioperi con tutti i disagi che causano anche a coloro che arrivano per vedere le partite di Euro 2016. E poi c'è il consistente, dicevamo all'inizio, consistente contributo di imbecilli violenti che passano sotto il nome di ultra del calcio, che rendono le cose ancora più difficili. Ma ci racconta un po' la situazione della Francia di questi giorni Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore proprio dalla Francia. Ciao Marco. Buonasera a voi. Ho cercato di fare una sintesi, ma insomma, sì, povera Francia. In effetti non è un periodo particolarmente felice per il paese, nel senso che si sono sommati, si stanno sommando una serie di fenomeni, di eventi, di situazioni tra loro completamente diverse, ma che però ovviamente vanno a incidere nello stesso periodo e sicuramente creano complessivamente nel paese uno stato di tensione, di allarme, di paura abbastanza inedito. Il terrorismo, sì, sai, il terrorismo come al solito, fino a quando resta una parola, colpisce poco. Poi quando invece ti confronti con gli eventi, con eventi come quello della scorsa notte, Premier Valls ha detto che è stata superata un'altra soglia dell'orrore, ha ragione, non era mai accaduto qualcosa del genere, cioè non è mai accaduto che l'attacco di un terrorista, peraltro l'ennesimo lupo solitario, l'ennesimo nemico in casa, avvenisse in una situazione del genere, cioè andando a colpire una persona, un poliziotto, sì, ma borghese che rientrava a casa la sera. E sua moglie, no? E sua moglie anche davanti agli occhi del bambino. Da parte di questo mostro, perché non ci sono molte altre parole per definirlo, che poi si barrica nel villino del poliziotto, sgozza la compagna davanti al figlio di 3 anni e mezzo, cioè sono cose veramente da far accapponare la pelle. E poche ore dopo parigini hanno assistito attoniti per l'ennesima volta alle violenze inqualificabili di alcune centinaia di vandali, di teppisti, di black bloc, di anarchici, chiamiamoli come vogliamo, che ancora una volta dettano legge in una manifestazione sindacale. Cioè si sono inseriti nella manifestazione nella manifestazione sindacale. Senti Marco, ritornando e poi andiamo su invece questo braccio di ferro che continua tra parte della popolazione e il governo sulla riforma del lavoro, ma per quanto riguarda l'attacco terroristico, anche in questo caso, a parte Hollande ha detto faremo di tutto, l'allerta sarà massima, la vigilanza, metteremo nuovi mezzi e strumenti per combattere il terrorismo, però non sembra che anche quest'uomo, questo killer, questo mostro, come hai detto tu, era già schedato come pericoloso, sì, già condannato a 3 anni, ancora una volta si pone il problema del controllo di queste persone. Persone già appunto condannate. È stato condannato a 3 anni di carcere, ne ha fatti 2 e mezzo per la partecipazione a una filiera di reclutamento per jihadisti pakistani. Le registrazioni delle sue telefonate del 2011, quando appunto venne arrestato, sono scioccanti. Già da allora dice ho sete di sangue, Allah ci darà i mezzi per innalzare la sua bandiera qui in Francia. E allora, ha fatto 2 anni e mezzo. Ecco, oggi gli inquirenti e i poliziotti dicono sì, ma negli ultimi 6 mesi le intercettazioni telefoniche non hanno consentito di registrare alcun tipo di sospetto rispetto a un possibile passaggio all'azione. Ma ragazzi, io da esterno e profano totale penso che una persona del genere non possa stare in circolazione. È un grosso problema, sì, questo, e anche per quanto riguarda, per esempio, questo riguarda, francamente, riguarda il terrorismo, ma riguarda appunto, scusatemi se faccio un parallelo con eventi che tra loro apparentemente hanno poco a che fare, ma riguarda anche le violenze delle manifestazioni. Cioè, bisogna trovare un equilibrio tra due diritti. Uno appunto è lo Stato di diritto, al quale siamo molto affezionati, che ci tutela della libertà, i nostri modelli democratici. Dall'altra però c'è il diritto alla normalità e alla sicurezza. Evidentemente oggi siamo in un momento in cui c'è uno squilibrio palese di un diritto rispetto all'altro. Questo equilibrio va ritrovato in un modo o nell'altro. Senti, per quanto riguarda invece i manifestanti pacifici o comunque coloro che in Francia, mi pare che siano un gran numero di francesi, non vogliono questa riforma del lavoro, in questo ultimo minuto e mezzo che ci rimane, non si riesce proprio a trovare un compromesso tra governo? Ma molti non lo so, perché i sondaggi mi sembrano così, francamente poco affidabili. Credo che molta gente che parla di questo progetto, di questa legge di riforma, una specie di Jobs Act francese, probabilmente non la conosce. Secondo me la gran parte della gente parla senza sapere cosa c'è dentro. In ogni caso, sicuramente vuol dire il governo è responsabile perché ha preparato male il terreno a questa riforma, che è una riforma importante. Dopodiché esistono, come dire, appunto, delle regole democratiche. Esiste una legge che si può contestare, ma viene poi votata da un Parlamento, eventualmente entra in vigore. Cioè, vuol dire, anche qui c'è. Cioè, anche appunto il diritto a, nessuno nega il diritto alla contestazione, alla protesta, alla manifestazione. Poi però come diceva un francese famoso, anche gli scioperi bisogna avere, come dire, la capacità di rompere. Marco, senti, per chiudere, poi qui quindi ci riagganciamo più in generale a una questione di sicurezza, ma soprattutto rifacendosi a questo attacco terroristico ai 2 poveri poliziotti, adesso appunto in corso Euro 2016. Speriamo che la Francia sia attrezzata in questo caso per vigilare, visto che anche qui bisogna francamente rassegnarci al fatto che a volte si ha a che fare con comunità, con gruppi, con persone con le quali non si possono usare i criteri abituali del rispetto della libertà. Cioè gli hooligans russi che vengono in Francia con il solo obiettivo di fare a botte, e parte degli hooligans inglesi che fanno lo stesso, non hanno diritto a rimanere in circolazione, non hanno diritto a stare per strada, certo. non hanno diritto a discutere, non hanno alcun diritto. Grazie Marco Mussanè, ti sento indignato ed è giusto, la Francia sta vivendo questa situazione, ci mancavano anche gli hooligans per dire, però ci vorrebbe un po' più di polso fermo, anche ricordando appunto che questo killer, due poliziotti, era stato arrestato, si è fatto proprio una pena brevissima, nonostante appunto queste intercettazioni terribili che mettevano sulla pista giusta di un uomo che aveva chiara intenzione di uccidere. Grazie a Marco Mussanè, corrispondente dalla Francia del Sole 24 Ore. Ciao Marco, adesso noi ci lasciamo brevemente per una pausa di creazione, come sempre voglio leggere ancora almeno un vostro messaggio tra il 349-238-6666 o la pagina Facebook di Effetto Notte a proposito della nuova proposta, ipotesi di flessibilità per quanto riguarda l'uscita da lavoro, quindi la pensione. Scrive Riccardo: faccio il chirurgo da 20 anni e ne ho 48, non immagino di poter operare fino a 68-70, un lavoro così logorante nemmeno considerato, non tutti i lavori sono uguali. Siamo d'accordo Riccardo, sia per te stesso sia per chi viene operato, forse non tutti a 70 anni diciamo magari hanno la mano ferma, forse anche i pazienti stessi sono più contenti se uno è più in forma diciamo. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, ci sentiamo a breve. Sono Giovanni Minoli, vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza con le bolle di Mario Sechi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, le inchieste di Giovanna Corsetti, il Vale la Pena di Alessandra Fiori e la comicità della Sora Cesira. E naturalmente ogni giorno i gialli della storia su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anzi i miei complimenti naturalmente anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano, con voi da qualsiasi parte del mondo stiate ascoltando Effetto Notte, perché ogni tanto mi scrivete dal Lussemburgo, dall'Australia, dalla Germania, dagli Stati Uniti, quindi ascoltato in tutto il mondo, ditelo anche a parenti, conoscenti, amici, amori eccetera, e scrivete anche le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 che è invece il numero per WhatsApp ed SMS. L'argomento che vi propongo voi stasera, mentre intanto approfondisco gli altri temi con gli ospiti, è questo: c'è una nuova proposta del governo sulle pensioni. Intanto precisa il governo non ha nessuna intenzione di modificare la legge Fornero, però propone una flessibilità in uscita dei lavoratori con strumenti finanziari, un prestito praticamente da restituire a banche e fondi pensioni con gli interessi nell'arco di 20 anni, con rate che durano per un periodo di 20 anni per poter andare in pensione un po' prima. Diversi i vostri pareri, vediamo per esempio il messaggio di Giuseppe da Udine, dice: io mi chiedo se questo governo veramente ha la lucidità, un prestito dalle banche per i pensionati, ma si dimenticano che per anni siamo noi che abbiamo prestato per anni i nostri contributi al governo, sarebbe ora che il debito lo facciano loro per pagarci. Poi un altro messaggio: e se muoio prima dei 20 anni, chiede un ascoltatore, un altro, se muoio prima dei 20 anni chi paga le rate residue? Queste sono le preoccupazioni che qualcuno comincia a sentire. Gianni da Bologna: è una vergogna e questo sarebbe il governo di sinistra alla faccia, dice Gianni. Poi scrive invece Rita: spero vada a buon fine questa proposta di anticipo pensione, ho 64 anni, operata di un tumore, ma ora sto bene, ma lascerei volentieri il mio posto a una persona giovane. Guido da Verona, anche lui si chiede se dovesse morire prima chi paga le rate. E poi invece un altro, Andrea: decisamente migliore, dice, questa delle proposte precedenti. Quindi diverso un po' il vostro modo di accogliere questa proposta, che poi dovrà essere naturalmente ulteriormente definita, ci saranno i dettagli eccetera. Ma intanto, mentre voi pensate, scrivete i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure appunto al 349-238-6666, vi ricordo i fatti principali. Francia: dopo l'uccisione di una coppia di poliziotti, il presidente Hollande assicura vigilanza al massimo livello e più mezzi contro il terrorismo. Intanto a Parigi scontri al corteo contro la riforma del lavoro, 42 fermi e 40 feriti. La strage di Orlando negli Stati Uniti, il presidente americano Obama torna a parlare e dice alla comunità LGBT non siamo soli e chiede di rendere difficile l'accesso alle armi. Se non si può salire armati su un aereo, dice, non si può acquistare un'arma. Intanto sparatoria in Texas in un supermercato, morto il killer e non ci sono feriti per fortuna. Borse ancora effetto Brexit, Parigi è maglia nera con meno 2,2%, Milano perde il 2,1%. La Corte Europea dice è legittimo che la Gran Bretagna limiti l'accesso alle prestazioni sociali se i cittadini non hanno il diritto di soggiorno nel paese. Le condizioni di salute di Berlusconi: sta bene, l'operazione è riuscita, così assicura il dottor Alfieri che l'ha operato. Pensioni, la proposta del governo, prestito da restituire in 20 anni per uscire in anticipo senza penalità. Dopo di noi, la Camera dà il via definitivo alla legge che appunto si chiama Dopo di noi. Per l'alimentazione, l'OMS promuove il caffè, non è cancerogeno, ne parliamo. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagna di cella ci ha dato mamma. Così cantava De André e insomma potete quindi berlo con serenità e con leggerezza, potete berlo, dico non possiamo berlo, nel senso che a me non piace il caffè, sono tra le poche persone, rarità, a cui non piace il caffè, ma so che questa notizia rende più sereni, se non contente, milioni e milioni di persone nel mondo, perché il caffè piace più o meno a tutti. Vi ricordate che qualche mese fa l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, l'OMS, aveva condannato le carni lavorate perché cancerogene, aveva annunciato che tra le sostanze sotto investigazione c'era anche il caffè. Ebbene, la notizia è arrivata oggi: nessun rischio di tumore dal caffè. La tazzina è stata assolta da circa 20 esperti internazionali che hanno elaborato un atteso parere dello IARC, che è l'agenzia dell'OMS per la ricerca sul cancro, che sarà poi presentata ufficialmente domani, perché nel 1991 il caffè era stato valutato possibilmente cancerogeno, ma così non è. Ne parliamo col professore Amleto D'Amicis, nutrizionista, epidemiologo, poi studioso anche del caffè. Professore, buonasera. Buonasera. È contento? Lei lo sapeva già che non faceva male il caffè? Sapevamo questo, perché per chi si occupa di caffè lo segue da diversi anni e numerosissimi studi già dimostravano che il caffè è assolutamente non correlato con il cancro, in particolare con quel cancro della vescica che era sospettato negli anni 90, l'unico. Ma la cosa sorprendente è che oltre a questo è venuto fuori dall'IARC ufficialmente quello che già si sapeva, che è anche protettivo nei confronti di due tipi di cancro, quello del fegato e dell'utero, quindi il caffè può fare anche bene oltretutto. Professore, però uno dice, bene, adesso mi bevo delle taniche di caffè, quante sono? Perché è sempre una questione di proporzioni, no? Dunque, questi sono studi che hanno valutato una quantità oscillante tra i 3 e i 5 caffè al giorno. Se parliamo di caffè italiano sono 3-5 tazzine di espresso, da tenere presente anche quelle che sono nel cappuccino. Se parliamo di tazze americane o quelle tedesche che sono di 100-150 ml, comincia a essere un po' troppo. Comunque la moderazione è quella che rassicura tranquillamente. Ovviamente un enorme consumo e si associa a uno stile di vita completamente sballato, di conseguenza non sappiamo se è il caffè o qualsiasi altra cosa correlata con lo stile di vita che possa influenzare sulle malattie. Tutto qua. Comunque, professore, fino a 5 tazzine tranquillamente, chiunque, ci sono delle particolari controindicazioni per qualcuno? Ma guardi, intanto chi non tollera la caffeina perché lo rende nervoso o non la tollera per altri motivi può rivolgersi al caffè tranquillamente, al caffè decaffeinato, o comunque può comunque ridurlo. C'è chi ad esempio problemi di aritmie cardiache che possono essere gravi, in quel caso sarà il medico a consigliarlo se è il caso o meno di prendere una tazzina di caffè. Anche chi ha un reflusso gastroesofageo può peggiorare la situazione bevendo troppo caffè e anche in questo caso il gastroenterologo potrà suggerire se è il caso o meno di prenderlo. Una tazzina comunque al giorno al momento sembra non dia fastidio a nessuno. Questo è basta la misura, una, come visione, sempre, una visione generale. Professore, detto tra noi, meglio il caffè o il tè? Visto che sono una bevitrice di tè, proprio il caffè. Ma sono due cose completamente diverse. Eh sì. Sono due cose completamente diverse. Il caffè, ad esempio, ha la capacità di passare la barriera ematoencefalica attraverso la caffeina. Il tè si limita di più all'aspetto parasimpatico, quindi dà una sensazione di... è una questione di gusto prevalentemente. È più simpatico il tè, più simpatico, è parasimpatico insomma. senso... non posso essere partigiana dell'uno o dell'altro. Quello che è emerso però è molto importante, è che una sostanza, il mate, che è una sostanza molto simile al caffè, che si fa con foglie di mate, si beve molto... Nell'America Latina mi sembra, no? di per sé non è dannoso. È dannoso il fatto che si consumi a temperature intorno ai 60 gradi, con la cannuccia che manda direttamente a 60 gradi nell'esofago la bevanda. Questo è pericoloso, perché la bevanda calda è pericolosa. Sopra i 40 gradi, 45 gradi, bisogna fare attenzione. Chi beve un tè molto caldo, un mate molto caldo, rischia molto per l'esofago. Anche di fondersi, insomma. Va bene, benissimo. Sempre il buon senso. Allora, professor Amleto D'Amicis, buon caffè a lei. Grazie, altrettanto un buon tè a lei. Grazie professore. E con grazie. Dopo questo scambio di caffè e tè possiamo brevemente lasciarci, c'è la viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ancora i vostri messaggi sulla proposta di flessibilità in uscita dal lavoro e pensione anticipata con questo prestito da restituire in 20 anni. Giovanni scrive al 349-238-6666. Gentile Roberta, penso che invece di anticipare la pensione con prestiti e rate assicurazione mi restituiscono i miei soldi rivalutati. Rinuncio alla pensione, dice. Adesso però vi ricordo velocemente le notizie più importanti, con Parigi che ripiomba nell'incubo jihadista, che quest'uomo che uccide due poliziotti, il killer su Facebook dice sono dell'ISIS, Euro 2016 sarà un cimitero. Scontri al corteo sul lavoro a Parigi, decine di feriti, lanci di pietre, polizia che risponde con i lacrimogeni. E poi Berlusconi, dopo 4 ore di intervento, dice il cardiochirurgo, è andato tutto bene. Europa 24 notte. Vacanze in aereo in Unione Europea, arrivano le linee guida per i diritti dei passeggeri. Assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri aerei con le vacanze estive ormai alle porte. È l'obiettivo delle linee guida adottate dalla Commissione europea che arrivano in Gazzetta Ufficiale in queste ore. Regole che già esistono, in vigore dal 2005, riviste nel 2013, ma nel frattempo cambiate e modificate nei fatti da innumerevoli sentenze della Corte di Giustizia europea. E dai grandi e piccoli incidenti sui cieli europei, uno per tutti, la nuvola di ceneri del vulcano islandese che bloccò per quasi 2 settimane l'aviazione internazionale, con rimborsi non indifferenti. Ecco perché, nel periodo dell'anno in cui più si viaggia, l'idea di mettere tutto nero su bianco e alla portata di tutti, come spiega Isabella De Monte, parlamentare europeo della Commissione che si occupa di aviazione. Chiarisce i casi di ritardo oppure di cancellazione del volo o addirittura di mancato imbarco. In realtà i problemi stanno aumentando proprio a livello statistico, perché aumentano i casi proprio di volo. C'è una statistica che parla di un aumento del 50% dal 2012 al 2025, quindi avremo un aumento di casistiche, per cui è chiaro che il passeggero si può trovare per difficoltà tecniche oppure per un eccessivo traffico a dover subire dei disagi. Questi disagi attualmente appunto sono già regolamentati. Quello che è ancora a livello di incertezza è un po' la casistica e i contenziosi che si sono avuti in tutti questi anni. In sostanza maggiore chiarezza. Sì, questo per ridare fiducia, perché credo che un po' a tutti sia capitato il caso di qualche disagio quando si vola. Ad esempio specificano che il negato imbarco riguarda anche il caso ad esempio di motivi operativi, il fatto di parlare di ritardo in 8 ore specifica che si parla di quando almeno una porta è aperta, perché poi chiaro queste sono determinanti per le compagnie, quanti risarcimenti, quanta cura dare. Chi viaggerà quest'estate in Europa ha sotto sotto anche una paura dal punto di vista della sicurezza. Su questo ci sono novità? La nostra commissione si era attivata immediatamente dopo il caso Germanwings per chiedere chiarimenti e un impulso proprio alla commissione di verificare determinate situazioni. Sappiamo che certi casi sono veramente isolati, però il fatto di avere una speciale tutela anche, anzi soprattutto del personale che opera, è una garanzia anche ovviamente per i passeggeri. Si rischia di avere da un lato la concorrenza sleale, ma dall'altra parte anche un tentativo da parte di alcuni di ridurre le tutele. Si è sentito parlare negli ultimi mesi del famoso PNR, il codice di identificazione dei passeggeri. Sta andando avanti, lo avremo, ma non quest'estate, ci vorranno tempi lunghi. Sì, perché comunque stiamo parlando sempre comunque di sistemi che devono essere messi in rete, di collaborazioni che devono essere attuate, quindi... Ci vorranno almeno un paio d'anni. Sì, sì, sì. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. E ora ci trasferiamo immediatamente in Francia, dove noi abbiamo inviato direttamente il nostro Dario Ricci a seguire Euro 2016. Grande entusiasmo per Conte, torna a far sognare l'Italia. Dario, tu l'hai sognata stanotte? Sì, però poi i sogni sono diventati incubi, Roberta, perché la notizia della serata è che sono diventati ancora gli hooligans il protagonista, sì, come avrei visto. Sono stati dei nuovi scontri a Lille. Tra ultra gallesi, inglesi e russi. Questo perché? Perché tra domani e dopodomani, tra Lens e Lille, che sono due città che distano appena 40 km l'una dall'altra, tornano in campo proprio dal lato Russia-Slovacchia e dall'altro Inghilterra-Galles. In quest'ultima partita sono attesi addirittura 50.000 tifosi, a cui inevitabilmente si mescoleranno anche gli hooligans. Quindi situazione di massima allerta, se non sbaglio sono già tre i russi arrestati a Lille e quindi come sentite qui a Casa Azzurri, a Montpellier, se c'è chi gioca a biliardino lo sentirà in sottofondo, la musica che arriva è quella di un nostro carissimo amico Enrico Ruggeri, lo abbiamo prestato a Casa Azzurri questa sera dove è protagonista con un concerto, quindi il clima è quanto mai sereno, tutt'altra cosa invece per questo Euro 2016 con gli hooligans ancora protagonisti. Ci mancavano solo loro, Dario Ricci. Ci dice il prossimo appuntamento per la nazionale italiana? Venerdì ore 15 a Tolosa, Italia-Svezia, Italia contro Zlatan Ibrahimovic. Grazie Dario Ricci, a presto e buon divertimento in Francia per le cose positive. Noi ci risentiamo alle 22.